You're listening to Rock FM. Esatto, ma soprattutto stai ascoltando Pane, Burro e Rock and Roll. Sono le 7:30 del mattino, giovedì 14 febbraio 2008, l'anno della svolta. Sbabam! Salutiamo un'amica che scrive: cavolo Ariele, per fortuna che ci sei tu, mi ero dimenticata che era San Valentino. No, sono uno schifo di donna, però rock. Post scriptum, ora chiamo il mio uomo che è alle 5 uscito di casa senza il mio augurio e gli faccio gli auguri. Bravo al Valentine Ariele. Questa non ci voleva. Questo mi chiede una canzone dei Lordi, Blood Red Sandman. È dalle 6 che lavoro. Oh, tieni duro, non ce li ho i Lordi sotto mano. Saluto anche Superlvo. Allora mi scrive: San Valentino non è per niente rock. Diamo una svolta a questa giornata, stasera tutti a casa ad ascoltare la Claudia con la radio a palla. Sembra una buona idea questa, gemellaggio PBR Claudia. Molto bene, molto bene. There she was, just walking down the street singing. Shuffling her feet, singing. Do what did it, did it, done, did it, do. She looked good. Looked good. She looked fine. Looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me, singing. Do what did it, done, did it, do. Holding my hand, just as natural as can be, singing. Do what did it, done, did it, do. We walked on. To my door, my door. We walk onto my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day, singing. Well, I'm hurt. I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hurt. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day. Singing. Do or did it, did it, dum, did it, dum. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Do or did it, did it, dum, did it, dum. Well, I'm hers, I'm hers. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, oh, oh, oh, yeah. Do or did it. Pensi che privilegio DJ Ariele, pensi che privilegio DJ Ariele nascere il giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati. Perché? Eh? No, così. Ti sarebbe piaciuto? Beh, farebbe è significativo. Cambio. Non so, però è significativo, così come posso... spero. Anche lei? No, beh, io mi tengo il mio 12 di novembre, proprio così. Ah, beh, giusto, va bene. Però. Allora anch'io mi adatto, però insomma è sempre la festa degli innamorati, certo. Il 14 febbraio, ed è con il cuore colmo d'amore. Di amore che io vorrei ricordare l'ode all'almanacco. Ah, beh, allora sì, lo faccia, la prego. Giovedì la vita resta dura e lo speaker tutto. La misura, sì. Ma resisti con Isacco, lo stagista, Spadino, Ariel e l'almanacco. Compleanni del giorno, si ricorda Alan Parker? Dunque, Alan Parker mi fa uno strano effetto. In che senso? Nel senso che mi sembrano due personalità, il colonnello Parker. Non è né il colonnello Parker né Alan Parson. No, questo è Alan Parker. Nasceva il 14 febbraio del 44 ed è un regista, scrittore, sceneggiatore britannico. Ma mi aiuti, The Wall, mi dica, dei mi Pink dica Floyd. Cosa ha fatto. Ha fatto Mississippi Burning, ha fatto The Commitments, un meraviglioso film. Sì. Ed è vita. Ma proseguiamo. Ed è vita. O Evita. Lì è stato onesto. No. Fatti il film, mi ha detto. Però, Evita. Non mi è riuscito molto bene. Evita. Bella, una questione di accento. L'è venuta bene questa. Ma proseguiamo con Tim Buckley, che nasceva il 14 febbraio del 47, come nel 1961 nasceva Daria Bignardi, giornalista e conduttrice televisiva, grande ascoltatrice di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Ma aspetti di vedere cosa rilancio, cosa ho in mano. Sì, Galo Lasso cali quando del vuole. 1964 con sì. Gianni Bugno, ah, ciclista, sì. Campione, grande campione italiano, sì, di ciclismo. Auguri anche a te, caro Gianni. Auguri a tutti i nati il 14 febbraio. Viva l'amore e anche il rock. E me, che c'è? Spinta che vediamo, eh? Alle 7:38, così via! Un po' di buon soul! Aretha Franklin! Think! Salutiamo l'operaio di quartiere. Piace un sacco l'operaio di quartiere. Ti ringrazia per la pillolozza soul del mattino. Continuate ogni giorno così, ci proviamo, operaio! Oh yeah! Chiusura fenomenale, eh? Vai Arita, chiudila. Così si chiudono le canzoni, mannaggia. Allora, saluto Laga. Ciao dall'Ariele, Pane, Burro e Rock'n'Roll, buona giornata, giovedì, quelle robe lì. Ho iniziato proprio alle 7 e qualche minuto, dedicando la puntata, però valeva più per quell'ora lì, perché adesso già siete un po' più svegli. Era un messaggio ai ragazzi che stavano guidando, alle ragazze che stavano guidando, di guardare dritto, non guardare di fianco, perché le facce di quelli che guidano a quest'ora non promettono niente di buono, poi vi spaventate, almeno a me succede così. Poco prima delle 6:30, quando sto arrivando qui, le facce di quegli altri che guidano, quando le guardo mi spavento. perché o perché si vede che non, già non ce la possono fare. Laga invece mi scrive: no cari, è meglio guardare che ti sta di fianco, magari è bionda con gli occhi azzurri e forse non festeggia San Valentino. Hai capito lo zozzone? Bravo, complimenti. L'anarchico amico scrive: invece di San Valentino noi si festeggia San Rocco, che è il santo del rock. Mentre Freak molla la brioche, senti questo, che si lamenta perché scrive: io ascolto, mi ascolto sempre, mi becco sempre lode all'almanacco. Allora vi scrivo una controode all'almanacco. Oh mamma mia, c'hai una base, Spadino, che... Ecco, proprio così. Controode all'almanacco. Ci provo, improvviso. De lavoro fuor magnaccia, e non è che me dispiaccia, ma sta in mezzo a tante gnocche, me ce vo un po' de rocche. Questo è toscano, sicuro. E me metto l'MLM a ascoltarmi sta FM. Ma è il momento più bislacco, e quest'ode all'almanacco. I non è che son razzista, ma sta cosa mi rattrista, e vi romperei la faccia, l'ho già detto, fuor magnaccia. Freak, tiri su dei poeti, cioè, è quello che ti meriti, tutto te lo meriti. I Triumph, sarà dura, ma ce la faremo. Music holds the secret, to know it can make you whole. It's not just a game of notes, it's the sounds inside your soul. The magic of a melody runs through you like a stream. The notes that play flow through your head like a dream. We'll be right back. Caro Frick, lo vede il nostro buon Spadino cosa sta armeggiando? Ma molto indaffarato lo vedo, con le mani nei capelli. L'ho già visto utilizzare quell'affarone in periodo natalizio. È il nostro laserone. È il laserone. Il pane burro rock and roll, puntandolo fuori dalla nostra finestra verso la stazione centrale. Ci hanno garantito il contatto con un uomo che viene dal futuro. No, ma dai, ma sono impossibili questi collegamenti. Quante domande ha da fare a un uomo che ci risponde dal futuro? Dal futuro. Senta i rumorini di sottofondo. Milano chiama il futuro. Pane, burro e rock and roll chiama il futuro. Futuro, rispondi. È etere o non etere? Questo è il problema. Poi il programma. Buongiorno. Il programma è pane, burro e rock and roll. Non ascolto la radio. Io ascolto solo Rock FM. FM sta per futuro momentaneo, no? Futuro, cioè c'è una particella che ricorda il passato, perché voi siete nel passato, per cui tu è quello che ormai è passato. Io mi trovo ormai felicemente nel 1900-3005, il 35 agosto, tra l'altro sono le 27:35, io ho anche da fare. Farà caldo? Fa molto caldo, sì, c'è questo trio che va a giro e riscalda il mondo, sono Caldo, Giovanni e Giacomo, che fanno, diciamo, questa sorta di circondano le persone e danno della calura. Siamo Ariel e Roberto Fricantoni, buona giornata. Buona giornata. Lei è? I nomi, guarda, non importano, perché adesso ognuno può decidere chi essere e chi non essere. Io sono Fabrizio Garlaschelli, per dire. Certo. Carlo Wolfgang, un nome qualsiasi da ingegnere, facevo ingegnere da piccolo. Ma è vero che, come diceva Andy Warhol, in futuro ognuno sarà celebre per 15 minuti? Molto meno, perché adesso le cose sono molto più veloci. Tra l'altro io ho già detto delle cose che non ho detto, però voi non l'avete sentito. No, perché sono, credo, sfuggite. In maniera così veloce, sapete che adesso siamo tutti un po' rinco e ioniti allo stesso tempo, dalla televisione, il futuro è così. Senta, però c'è gente, grazie a Dio, che ha ancora la radio nella testa, però proprio fisicamente. In che senso? Sì. Persone che vanno a giro hanno al posto della testa una radio. Incredibile. I Radiohead si chiamano, questo nuovo tipo. C'era anche una band, c'era una band dei nostri anni. C'era una band, ma c'è ancora. Addirittura sono tornati in voga proprio quest'anno con un pezzo bellissimo, proprio da commozione. Sì. Si chiama Pavia il pezzo, è un pezzo bellissimo che sta spopolando. Sono tornati a fare musica strumentale, cioè praticamente non si sente la musica se non all'interno della testa di ognuno. Ma a proposito di musica, farvelo sentire anche, non so se... Lei ha qualcosa dal futuro? Assolutamente sì. No, non vediamo l'ora, veramente uno scoop per pane, burro e rock and roll. Il nostro, come ha detto, che si chiama l'uomo del futuro? Wolfgang. Si chiama Onorevole Ginelli. Ginelli, signor cambia. Ginelli. Ma lei è anche onorevole? Non era... Era ingegnere da piccolo, ora continua a fare l'ingegnere da piccolo, però sono anche onorevole. Onorevole Ginelli, ma lei ha lì qualcosa da farci sentire, veramente? Io ho proprio qui il disco dei Radiohead. Incredibile. Ma via, ve lo faccio sentire, tra l'altro ha un assolo di nacchere che nemmeno io cono. Ah. Ecco, questo... Molto interessante. È intenso e devo dire che le parole sgorgano con difficoltà dopo aver sentito una canzone del genere. Ma era finita? Anche perché la sintesi vince. Extended, perché va anche nei club, fra l'altro, è molto ballabile, delle quattro gambe di ognuno riusciamo a far miracoli. Allora, è giusto dire che nel futuro la sintesi vince? Ho già risposto, voi non avete sentito perché siamo così rapidi. Ma anche la radio, io, se volete, posso farvi sentire. Non so. Sarebbe carinissimo sentire cosa ascolta la popolazione del 1900-2020, come diceva. Vediamo un pochino su MF Rock. Sì. Un attimo. Questa cosa la sentiamo? Si può star bene senza complicare i panni. Così io già sento. No, ma questa io l'ho già sentita. Sì. No, dai, se che te. Non è nuova. Questo è Bersani. Samuele Bersani. Già sentito, signor? No, questa è musica del 1903-2006, impossibile. È una cover questa, magari. Mi ha fatto cover in cover again, cioè tutte le volte la rifanno. Quindi è una cover questa, signor? Uomo dal futuro. Cover. Pronto. Questa è la coperta con la quale ricoprire tutti i sogni, anche quelli non sognati, anche i sogni da sveglio, anche i sogni che sognano le persone sveglie che non dormono e quelle che sono sveglie che vorrebbero sognare di dormire, le persone che... Non riusciamo più. Spadino, ha colto l'aggancio cover coperta. Sì. Molto interessante. Molto interessante. Veramente. L'uomo del futuro, uno scoop. you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. Serve solo l'amore. Beatles, All You Need Is Love. Che branone. Lennon McCartney. Segnalo RadioRockFM.com, il sito di Rock FM, che spesso e volentieri ha notizie curiose del mondo del rock. E a proposito di Lennon, consiglierei ai radioascoltatori, radioascoltatrici, lasciate stare, non è molto interessante, questa notizia di Yoko Ono che fa causa a una certa Lennon Murphy, una cantante irlandese, da quello che intuisco. La notizia non mi interessa più di tanto, ovviamente Yoko Ono le fa causa perché di nome lei si chiama Lennon e quindi dice non puoi andare in giro a fare i concerti dicendo suona Lennon, perché Lennon è il mio John e basta. La cosa interessante è la fotografia di questa signorina Lennon Murphy. Mi verrebbe da chiedere subito al nostro camionista Yuri se mi sa dire che taglia mi porta, perché è messa molto bene, quindi così, se volete svoltare la giornata, gettate un occhio, amici all'ascolto, a RadioRockFM.com, un'occhiatina a questa Lennon Murphy. Mi piace già, guarda. Non ho ancora mai sentito un suo pezzo, ma già mi piace, capita a volte così, sai. Problemi dell'estetica. Umamma che emozione, c'è la radio promozione! Vi ricordo che domani con Panorama continuerà la collezione delle pietre miliari del rock, gli album leggendari che hanno conquistato le classifiche del tutto il mondo. Domani in allegato con Panorama troverete Horses, un album dirompente, ovviamente della poetessa del rock Patti Smith, la sacerdotessa della New Wave, un album di intensità sconvolgente, carico di energia ma capace di giocare con le parole come nessun altro, una performance insuperabile per una delle massime interpreti del rock. Domani in allegato con Panorama, Horses di Patti Smith. Andate, pigliatelo e dite che vi ha mandato pane, burro e rock and roll.